sotto il sole uno stellato, marcia alfante a fardellato. Perché piova o faccia bello, da filosofo qual è, egli porta nel fardello tutti i beni suoi con sé. Che bagaglio tintinnante quando marcia indosso il fante. Quali musiche moderne fanno maschera e giberne. Che concerto dolce e gaio fan la tasca ed il cucchiaio. Chiusi dentro la diletta, stonatissima garetta. Un armadio gonfio e grosso porta al fante sempre indosso. Quel mobilio un po' pesante fa sudar talvolta al fante. Con le spalle un suo colpetto il buon fante allor gli dà, e lo zaino sull'elmetto tintinnando a batter va. Come fa la chioccioletta che cammina senza fretta, porta al fante senza pena la sua casa sulla schiena. Con le cose le più strane gonfia al fante il tascapane, stringhe sigari pagnotte, pettinini calze rotte, munizioni scatolette, bombe a man pezze e gallette, carte e buste color rosa con cui scrive all'amorosa. Senza chieder dove vada batte il fante la sua strada, batte il fante lo stradone con la pioggia e il polverone. Che la santa fanteria marcia sempre in pedovia, marcia al caldo, marcia al fresco, sul cavallo di San Francesco.